1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, le 7:20 minuti, cari ascoltatori. Pronti a leggere i giornali insieme a voi, se volete, e a raccontare quelle che sono le notizie più importanti. Nel giorno in cui si chiude, lo sapete, la 149esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Ma niente pessimismo, la 150esima è alle porte, dai! Settimana prossima, anche perché oggi è venerdì! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Ebbene sì, è così. E allora andiamo. Venerdì 11 marzo, guardate, oggi tutti i titoli sono su Draghi. Draghi anche con giochi di parole, ne cito due. L'anno del dragone per l'unità, mentre Super Mario Bros per il manifesto. Perché? Perché Draghi e il suo quantitative easing sono in prima pagina ovunque, il Sole 24 Ore, la BCE taglia i tassi, rafforza il QE, appunto, il quantitative easing. Il Messaggero, crescita, la sferzata di Draghi, per la Stampa il blitz di Draghi contro la crisi, per Repubblica BCE la valanga di Draghi, il Corriere della Sera, la spinta di Draghi all'economia, Il Giornale, arrivano i soldi, ecco cosa fare, e Libero anche, cosa cambia con i tassi a zero. Insomma, come vedete, tutti i titoli di prima pagina sono conquistati non solo in Italia, immagino nei giornali italiani, da Mario Draghi. In tutto questo, l'apertura invece del Fatto Quotidiano, riciclaggio, indagati e perquisiti i compari massoni di Papà Boschi, l'inchiesta su Banca Etruria con le perquisizioni a casa di Flavio Carboni e Valeriano Mureddu, nei guai con la legge. Allora, di Draghi parleremo più avanti. Intanto c'è questa cifra, una cifra che viene messa in ampio risalto da Repubblica, dal Fatto Quotidiano, da Avvenire, anche se Avvenire ha un taglio originale un po' diverso e non si ferma solo alla cifra. La cifra è questa: 4 miliardi e 300 milioni, anzi 350 milioni. Tutto ciò è ciò che lo Stato perde ogni anno, lo dice in un rapporto la Guardia di Finanza, per raggiri, truffe, gare truccate. Ecco qui Corrado Zunino a pagina 16 di Repubblica. Truccata una gara su tre da evasori totali e truffe, un conto da 4 miliardi. Danni allo Stato nel report della Guardia di Finanza. Il boom di raggiri da benzinai, sale gioco e finti poveri. Adesso lo so che andate a fare benzina e guardate il benzinaio con quell'occhio di traverso per cercare di scrutare, sarà mica uno di quelli che dicono che faccia le truffe. No, dai, ci vuole la fiducia in genere, d'altronde non è che potete saperlo, scoprirlo, quindi partite da un principio di fiducia. Comunque, il conto è questo, conto da 4 miliardi e 350 milioni. Parla anche il comandante generale della Guardia di Finanza, il generale Capolupo, che dice a Repubblica: i controlli non bastano, manca in Italia il senso della legalità. Diffusa, diffusa in tutti i campi. Non credo che i controlli siano una leva idonea, dice il generale, e non è una leva sufficiente a eliminare il problema della corruzione e della concussione. Il problema al solito è culturale, lo scarso senso della legalità economica. Nostro obiettivo prioritario è combattere gli sprechi, l'uso distorto del denaro pubblico per riportare la legalità nell'economia. Questo dice il generale della Guardia di Finanza. Dicevo, il taglio è un po' diverso di Avvenire, perché Avvenire non mette solo questa cifra, le truffe, eccetera. Mette a fianco, ecco però, l'Italia che va. Storie anche positive. E visto che mi sono ripromesso di darvi appena possibile, appena riesco, se i giornali ne parlano, cose, spunti positivi, per essere un pochino anche più ottimisti, non deprimervi all'inizio della giornata, ecco che Avvenire, a fianco a queste truffe, questo report della Guardia di Finanza mette anche, in un viaggio da nord a sud, alla scoperta dell'Italia che silenziosamente continua a produrre efficienza e solidarietà. Tre storie diverse. La prima è del Trentino, la seconda è di chi cerca di dare posti di lavoro per battere i clan in Calabria e la terza invece a Milano di un agricoltore che con la sua battaglia per difendere la sua azienda ha fermato il cemento, no? E si ricorda sempre la vicenda della Via Gluck di Celentano, insomma una famiglia di agricoltori che ha fermato i palazzinari spiegando l'onestà conviene, quindi storia anche di chi ce la fa, le trovate su Avvenire a pagina 6 proprio a fianco a questo rapporto che invece ci rende un po' sconsolati, questi 4 miliardi e 350 milioni. Mentre che dire di quello che è successo ed è tutto documentato l'articolo di Luigi Ferrarella a pagina 19 del Corriere della Sera. Allora, poco tempo fa è stato arrestato il direttore delle poste, un direttore delle poste di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, su ordine dell'antimafia di Milano, peraltro. Ma sentite cosa è successo, per un disguido, Il fax segretissimo sull'inchiesta spedito per sbaglio all'indagato. Spedito per sbaglio all'indagato. L'errore alle poste. Hanno giustamente indaga l'antimafia di Milano, indaga il direttore delle poste di Siderno, Reggio Calabria, e per sbaglio le poste recapitano lo direttore. Beh, è un direttore delle poste, gli vorremmo recapitare anche un fax segretissimo in cui si diceva stiamo indagando, ma non ditelo assolutamente all'indagato, soprattutto stiamo indagando, è arrivato tutto con raccomandata, è stato spedito anche al direttore delle poste. Per essere collaborativi, scrive Ferrarella, come vantato dall'azienda e dato atto anche dai PM della conferenza stampa, in Poste Italiane sono stati collaborativi perfino troppo. Nell'indagine di 'Ndrangheta sfociata 10 giorni fa nell'arresto del direttore delle poste di Siderno. Oltre a collaborare consapevolmente coi PM, infatti, Poste Italiane ha collaborato involontariamente anche con il futuro arrestato, al quale un anno fa, agli albori dell'indagine, improvvidamente inoltrò la prima richiesta di notizie che il capo dell'antimafia Boccassini rivolgeva all'ufficio legale delle poste. Tra l'altro Ferrarella, perché so che voi avete il dubbio di dire «Meh, l'avranno fatto apposta», in realtà non gliel'avranno fatta apposta, non è stata una svista, no, è stata proprio una svista. Infatti Ferrarella scrive più avanti: un pizzico di fascino del male nobiliterebbe quasi quasi lo scenario di una talpa postale, ma la realtà è meno romanzesca, è più prosaica, è stato solo un errore di burocrazia interna di due dipendenti, forse indotto dal fatto che filiale per loro è non il singolo ufficio postale, ma la sede dalla quale dipendono più uffici. Insomma, sta di fatto che questa persona arrestata 10 giorni fa, già da un anno sapeva, anche se la notizia doveva rimanere per lui segretissima, che stavano indagando su di lui. Vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare? Arrivano invece notizie, questa notizia che mi ha colpito dagli Stati Uniti, che riguarda una donna, si chiama Jamie Guillot. Voi non saprete chi è, neanche io lo sapevo prima che finisse sui giornali. Che cosa ha fatto? Jamie Guillot, donna della Florida, molto avvenente, se vedete, anche su Facebook, una bellissima donna, davvero, 31 anni, si vantava continuamente di essere una donna pro-armi. Ce ne sono tante negli Stati Uniti, no? Pro armi, talmente pro armi che si fa fotografare sempre con le armi, difende il diritto delle armi, ad avere le armi, e va bene. E solo che si vantava anche del piccolo suo, 4 anni, in grado di sparare. Talmente in grado di sparare che ha sparato la mamma. Scusate se rido, no? Non si dovrebbe ridere, è un dramma, ma è sopravvissuta fortunatamente la mamma, nel senso che mentre era in macchina il bambino dietro di 4 anni, invece di avere, che ne so, un pupazzo, gingillarsi con un cellulare, ascoltare la musica, si gingillava con una pistola. Il bimbo di 4 anni, perché fa così? Questa mamma gli piace così. A questa mamma piace così. È solo che a questo bambino, inavvertitamente, è partito un colpo di pistola che ha trapassato il sedile della mamma e l'ha trapassata anche da parte a parte all'addome. È fuori pericolo. a 4 anni spara alla madre passionaria delle armi. Il Fatto Quotidiano, ma anche il Secolo XIX dedica una pagina a questo: difende il diritto alle armi ferita dal figlio di 4 anni. E ragazzi, quando una è cretina, poi non è che può dare la responsabilità della propria cretineria ad altri. Meno male che si è salvata. Ma qui devo dire, entro in un mani sul volante che oggi veramente mi stava facendo spaccare quasi una scrivania dalla rabbia. Eh sì, l'articolo che mi fa pinzare della giornata l'ho trovato su Libero, sul Giorno. Leggo questo di Libero, perché tutti hanno questa storia sul giornale. Sentite qui. Lasciamo impuniti gli abusivi, multiamo il dolore di un papà. È una storia che Giordano Tedoldi su Libero racconta, pagina 18. 5 anni fa, un bambino di 9 anni, Andrea Rossato, muore sugli sci a Cortina, in una pista. Tra l'altro in una pista c'è stato un processo perché la pista era indicata come azzurra, in realtà era una nera, c'è stato un processo che si è chiuso da poco, eccetera. Allora, siccome questa pista è stata chiusa dopo questa tragedia, il padre di questo bambino, che cosa ha fatto? È entrato nella pista per depositare un mazzo di fiori là dove suo figlio è morto. Risultato? I vigili di Cortina, siccome la pista è chiusa, lo hanno multato per aver violato il divieto di accesso alla pista. E il papà, che aveva pensato a quel genere di scherzi di pessimo gusto che la vita ti tira tanto per infierire quando già sei con le spalle al muro, si è pazientemente impegnato per contestare la multa, dire: no, ma vi siete sbagliati, vi rendete conto cosa è successo a mio figlio e che cosa ho fatto io? Ebbene, ieri è arrivata la notizia che i vigili di Cortina, dopo averlo multato, hanno respinto la richiesta del multato di annullare la sanzione credo da 50 euro. 50 euro, eccolo qui, fiori sulla neve dove morì il figlio, il padre multato dai vigili di Cortina. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. A Milan leggi un po' sti giornali, così come al mondo nessuno li sa leggere, Belin. Belin. Va bene, caro ascoltatore, credo che tu sia da Genova. E allora grazie per le vostre sigle che mandate al 349-238-6666. È il numero WhatsApp anche, WhatsApp, così mandate i vostri audio in qualità ottima. Allora, tutti i titoli principali sono su Mario Draghi. Ovviamente oggi il Sole 24 Ore diventa quasi la vostra Bibbia, perché vi spiega bene che cosa ha fatto il presidente della Banca Centrale Europea, l'italiano Mario Draghi. Un poker a sorpresa, scrive Alessandro Merli a pagina 2. Intanto ha annunciato un pacchetto di misure espansive, abbassando i tre principali tassi di interesse: il tasso di riferimento, ridotto dallo 0,05% allo 0%, quello overnight sui depositi passa da 0,30 a meno 0,40, e la marginal lending facility, che offre credito overnight alle banche, scende dallo 0,30 allo 0,25%. Poi ha rilanciato appunto il quantitative easing, cioè gli acquisti mensili di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, che aumenteranno da 60 a 80 miliardi di euro. Poi la BCE intende prestare liquidità illimitata agli istituti bancari che fanno credito all'economia con una serie nuova di maxi prestiti. E infine si arricchisce al mondo delle aziende l'elenco dei titoli acquistabili dalla Banca Centrale Europea. Insomma, quattro mosse, come racconta Merli. L'idea è di pagare le banche perché facciano credito all'economia reale. Certo, poi siamo sempre lì, insomma, che non se li tengano i soldi, che poi possano andare alle famiglie, i mutui, ai finanziamenti delle imprese. Questo è l'obiettivo di questa operazione della Banca Centrale Europea. Tra l'altro, come scrive anche Danilo Taino a pagina 3 del Corriere della Sera. Mario Draghi ha travolto ieri buona parte dei paletti che sembravano limitare la sua politica monetaria. Con una certa facilità, si direbbe, un ampio ventaglio di misure prese dal Consiglio dei Governatori è stato votato da una maggioranza schiacciante, così ha detto il presidente della BCE. E abbiamo la prova che la banca centrale è indipendente, non si fa condizionare dall'esterno nemmeno quando i critici sono potenti come il mondo dell'economia tedesco. Ricordiamo che il presidente della banca centrale tedesca, che non votava peraltro ieri per rotazione, era contrario a queste misure. Che non è timida, la banca centrale osa sperimentare su territori vergini, sa sorprendere e in effetti ieri ha sorpreso, scrive anche il Corriere con questa quaterna di manovre, e vedremo ora gli effetti, si spera, sull'economia reale nei vari paesi, non solo nell'Italia. In Italia, dove invece ci si accapiglia ancora per questa storia delle primarie, niente, non finisce più. Ieri Bassolino era da Lille Gruber, 8:30, ha detto che è pronto a preparare una lista, a ricorrere ancora. Sta di fatto che Valeria Valente, che ha vinto le primarie a Napoli, oggi intervistata dal Corriere della Sera da Alessandro Trocino, pagina 6, cerca di smussare tutti i toni e dire: sono state le migliori primarie di sempre a Napoli. Addirittura, chiede il Corriere, sì, e possono competere anche con quelle fatte in altre città. Non è colpa mia se ci sono state inesattezze scritte. Per esempio, il signore in macchina, si è parlato di un signore in macchina, è un paraplegico, figlio dell'onorevole Palladino di Scelta Civica, e nessuno gli chiede scusa. E quei video, scusi, i video della dazione di denaro, quei video sono stati costruiti ad arte, risponde la Valente. Non so da chi, possa avere dei sospetti, ma mi chiedo perché siano stati diffusi solo il giorno successivo all'esito delle primarie. Forse non è piaciuto il nome del vincitore, comunque mi piacerebbe molto vedere l'integrale di quei video e li chiederò. Così la Valente, mentre Bassolino attacca. Anche De Magistris, sindaco di Napoli, dice: quegli episodi sono un danno agli elettori e a tutta la città. Secondo me sotto sotto in realtà gongola, perché se c'è una divisione del Partito Democratico, lui che si ricandida potrà solo che approfittarne. C'è Renzi che, secondo il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli dice: ormai qualcuno vuole giocare qui allo sfascio, a distruggere tutto. E d'altronde in questo retroscena del Corriere si dice che Veltroni vada in giro a dire di Renzi agli amici: ormai così non se ne può più di Renzi, non se ne può più. D'Alema invece lo definisce un pericolo per la democrazia. D'Alema, non contento, rinforza tutta questa sua tesi in una intera pagina di intervista al Corriere della Sera. È il solito D'Alema, un po' duro. È duro, uso un eufemismo. Sentite, intervistato da Aldo Cazzullo, come esordisce l'intervista. E la classe dirigente del PD insulta e calunnia con metodi staliniani. Questo è solo l'esordio dell'intervista, nella quale poi sostiene, sistema tutti D'Alema. Parla di Giachetti così: si è fotografato su internet mentre traina un risciò in cui è seduto Renzi. Questa non può essere l'immagine del sindaco di Roma, neanche per scherzo. E poi parla delle primarie di Napoli, dati impressionanti, nelle aree di voto d'opinione Bassolino è nettamente avanti. E il presidente del partito, Orfini, che dice che il ricorso è respinto in ritardo, ma qui siamo alla stupidità, cioè D'Alema che dà dello stupido al presidente del partito Orfini, che tra l'altro è una sua creatura. Infatti Cazzullo gli dice: ma scusi, ma il presidente del partito Orfini è una sua creatura. E D'Alema risponde così: nella vita si può evolvere in tanti sensi. E poi parla di Renzi. Renzi dice: il nostro gap viene da lontano, non è colpa di Renzi se l'Italia cresce dello 0,7%, ma cresciamo la metà dei paesi europei. Altro che siamo più forti dei tedeschi, l'Italia ha ripreso a correre. Sarebbe carino evitare la propaganda e dire la verità al paese. Renzi oggettivamente somiglia più a Berlusconi che all'Ulivo. La cultura di questo nuovo PD è totalmente estranea a quella originale. Ma questo è D'Alema che poi dice: se Renzi sfascia tutto, il partito della nazione non è il futuro, ma arriverà il populista Grillo. Insomma, un D'Alema che a tutto campo attacca il PD, Renzi, Orfini, eccetera, un po' tutti. Ma attenzione, qua c'è una notizia da dare, perché sapete che si vocifera sui giornali che Renzi sta studiando la manovra fiscale per un po' il colpo sotto le elezioni amministrative. E allora Libero assicura: possiamo anticipare cosa annuncerà a breve Renzi sotto elezioni. Lo scrive Elisa Calessi a pagina 7. Renzi ha la contromossa in mano: cancelliamo il bollo auto. Cari italiani che state qui, lo so, vedo già alcuni così: sì, e vai, 50 milioni di italiani che pagano il bollo auto per un incasso di 5,9 miliardi. Certo, c'è il problema delle coperture, però il bollo auto lo incassano le regioni. Non è che magari Renzi farà quel giochino di: noi ve lo togliamo italiani, adesso regioni stringete la cinghia. Partiranno subito dossier sugli sprechi delle regioni, a cominciare a dire: ecco, tagliate lì e noi cancelleremo il bollo auto. Mauro Meazza, questa è la notizia da Mani sul Volante. Buongiorno, buongiorno. No, hai già detto tu, insomma, bisognerà avvisare le regioni, però appunto, e le regioni dimagriscano. Digli qualcosa. Vabbè, però d'altra parte non si può neanche continuare a dire Nein zu allem, no? Chi ho citato il governatore Draghi, esatto, che ieri ha detto: beh, non si può neanche dire sempre no a tutto. Allora, su Draghi, una cosa, già me ne compiaccio, hai dato ampio resoconto delle nostre pagine iniziali, c'è anche una bussola per spiegare allora che succede, viste tutte queste decisioni della Banca Centrale Europea, che succede sui mutui, che succede sui conti deposito, eccetera, eccetera, eccetera, per spiegare, insomma, l'effetto o gli attesi effetti sull'economia reale. Oh, ti voglio dire che da domani, se ti vuoi dimettere, ma non è un consiglio, ti dico, se domani ti vuoi sabato, quindi insomma, comunque da domani devi usare il PIN dell'INPS. Lo ricordiamo su Norme Tributi, perché sai che si passa le dimissioni con questa procedura telematica, quindi ti sei procurato il PIN INPS perché magari ti vuoi dimettere per altro, però non lo so. Comunque sappi che da domani c'è questa procedura in vigore se ti vuoi dimettere, se tu ti volessi dimettere. Poi sì, naturalmente io non ti sto. Oh, poi ti voglio dire, parliamo anche di voluntari disclosure, era un po' che non accadeva, perché in Norme Tributi le indicazioni delle entrate per gestire appunto la fase dopo la presentazione delle istanze, quindi questa fase qua. La mitica voluntari. La voluntari. Sì. Ti voglio anche dire una buona notizia pure io: c'è stata una spesa record dei turisti esteri l'anno scorso, 36 miliardi hanno speso, quindi questa è una buona notizia di quelle che vai cercando tu. Io molte altre cose ti vorrei dire, ma innanzitutto naturalmente ti auguro buon appetito per domenica. Ah, giochiamo lunch match, come si dice adesso. A Chievo, a Verona. La Fatal Verona, mi viene da chiusare. La Fatal Chievo, sarà anche la Fatal Chievo. Ti voglio anche dire che l'Inter è in testa alla classifica. Sì. Non ti risulta? È perché non leggi avidamente, come invece dovresti fare, Finanza. Le pagine di Finanza, perché lì scoprirai, tra le tante notizie che riguardano le società quotate e non quotate, che l'Inter ha questo primato dei debiti. Va bene, un po' come il primato dello scudetto d'agosto ogni anno. Insomma, diciamo che questo primato dei debiti non mi rasserena, però invito tutti i fratelli nerazzurri a dare attenta lettura a quanto scriviamo. Però parlate oggi soprattutto di voluntary, giusto? La voluntary, mitica la voluntary, perché ti hanno già corretto la pronuncia. Te la ricordi? Va bene, allora guarda. Che cavolo ordini, mannaggia la puttana, spiegatevi bene. Guarda, io saluto tutti gli ascoltatori, ma in particolare Angelino e anche naturalmente Vittoria, la bambina che ieri, devo dire, ha preso 4 per aver scritto Mauro Meazza. Non ce l'ha detto com'è andata il voto. Fammi concludere anche oggi, naturalmente buona domenica, tanti auguri soprattutto a te di un buon pranzo domenicale e a tutti quanti, traffico! Alessandro Bilan, il zozzo nero dell'informazione. Vabbè. Bravo, caro ascoltatore, bravo, bravo, bravo, divertiti così. Allora, le banche, la questione delle banche, Banca Etruria. Beh, ho letto questa chicca sul giornale. Paolo Bracalini racconta, pagina 5, Etruria, la corsa degli ex capi per risultare nullatenenti. Ha scoperto tutto l'associazione Vittime del Salvabanche, che ha fatto una ricerca e ha scoperto che la maggior parte dei dirigenti delle banche sono nullatenenti. E dicono loro, lo dice Letizia Giorgianni, presidente dell'associazione, evidentemente hanno intestato in tempi non sospetti apparenti le loro proprietà. Ora io non lo so, bisogna provare tutto ciò, però ci potrebbe essere una piccola ripicca, perché poi la storia mette a posto tutto, no? Cara Presidente, lo so la rabbia nel vedere, verificare questa notizia, però parenti serpenti, magari chissà quando un domani, se qualcuno l'ha fatto degli ex dirigenti, di intestare a parenti proprietà, case, conti, in modo da non risultare nullatenente, magari un domani andrà a chiederlo al parente e il parente dirà no, adesso è mia questa casa. Magra consolazione, mi rendo conto, ma che dobbiamo fare? Mentre continuano per la cronaca nera tantissimi articoli, vi segnalo anche uno di Antonio Di Polline, interessante l'analisi della cronaca nera, il rapporto con la TV, il circo della cronaca nera in TV, proprio il giorno in cui, o pochi giorni dopo l'annuncio da parte del direttore generale della RAI Campodall'Orto di volere togliere da domenica in, almeno la domenica pomeriggio, la cronaca nera. Ebbene, il circo però continua. Antonio Di Pollina realizza questo reportage su Repubblica per capire come la cronaca nera in realtà tiri, nel senso che l'audience aumenta e lo share, gli ascoltatori aumentano nelle trasmissioni, soprattutto nel pomeriggio, quando si parla di cronaca nera. Beh, ci sono sempre più dettagli su questa vicenda del delitto di Roma. Intanto si è scoperto che ben 7 persone sono passate nella casa dove Luca Varani è stato ucciso, quindi un vero e proprio festino. Ecco, io una cosa però non ho capito: perché il Messaggero lo fa mettendolo in prima pagina come titolo e poi anche all'interno come titolo, come se fosse un aggravante, e cioè questo. Dov'è che è il titolo? Vai a trovare i giornali quando servono. Uccise travestito da donna, l'orrore del delitto di Roma. Cioè, non capisco quale sia il punto, quale sia l'aggravante, cioè che uno dei due assassini era travestito da donna e in scarpe con tacchi a spillo quando c'è stato il festino, ha ucciso. Non credo che sia l'aspetto più macabro e più terribile di questa vicenda di cronaca. Vi segnalo invece che Obama ha fatto un'intervista, in genere di quelle interviste nelle quali il presidente degli Stati Uniti si toglie qualche sassolino dalla scarpa in fine mandato, però in genere lo si fa a ridosso delle elezioni. Questa volta al magazine The Atlantic Obama ha detto alcune cose, solo che ha ancora 10 mesi alla Casa Bianca da passare. Europei parassiti sulla sicurezza, sulla questione della Libia. Ha utilizzato in realtà questa espressione free rider, cioè chi usa il mezzo pubblico senza pagare il biglietto in pratica. Non sopporto quei comportamenti europei. Perciò ho detto a Cameron che l'Inghilterra non può aspirare a una relazione speciale con noi se non spende almeno il 2% del PIL per la difesa. Insomma, parassiti della sicurezza. Sono free rider alcuni stati europei per Obama. Noi useremmo un'espressione un po' più da furbetti del quartierino, cioè fanno il froce col culo degli altri. Però insomma, Obama dice così di alcuni europei, stati europei, in particolare la Gran Bretagna. Siamo alla carta costa, sì, perché il tempo vola. Eccoci qua, è l'articolo che mi fa più sorridere, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi, a mio, ricordate, insindacabile giudizio, e come aggiungo sempre io, però ricordate che anche il microfono costa. Anche il microfono costa. Maria Cuscela ci racconta da Varallo Sesia, a pagina 17 della Stampa, la migrazione ogni anno di rospi e rane in marcia verso il lago dell'amore. Cra! Cra! Cra! Lega!